Dame e cavalieri, a posto per la nuova danza, la raspa. La raspa. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Sotto braccio. Cambiare. Change. To change, che cultura. La raspa. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Cavalieri, in ginocchio. Anche lei, signore. Come dice? Che ha un po' di pancetta. Beh, non importa. In ginocchio lo stesso. Grazie. Dame in ginocchio. Che bello vedere le dame in ginocchio davanti agli uomini. Una volta tanto. Sotto braccio. Cambiare. La raspa. Novità, craia, craia, craia, i cuori conquisterà, craia, craia, craia, dal Messico al Canada. Valzer alla messicana! La raspa! Craia, craia, la raspa del Paraná, craia, craia, craia, è l'ultima novità. Craia, craia, craia, i cuori conquisterà. Craia, craia, craia, dal Messico al Canada. Sotto braccio! Cambiare? La raspa! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Finale! Andante vivace! Molto mosso, signori! Allegro, allegro con brio! Più in fretta, Angelini non aspetta!